9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 2 dicembre e Oscar Giannino nel salutarvi propone oggi la riflessione su un paradosso che interviene in una materia già abbastanza paradossale. La materia paradossale è il fisco, che come sappiamo bene ce ne occupiamo spessissimo dai microfoni di Radio 24, come sulla colonna del Sole 24 Ore, e molto più croce che delizia per i contribuenti italiani, per le imprese italiane, soprattutto per quelle piccole, per quelle medie, ma è anche una croce talvolta per coloro che il fisco lo esercitano, per così dire, in nome delle prerogative pubbliche che esercitano raccolgono le imposte e le tasse da noi cittadini e dalle imprese. E quindi il paradosso è che in un paese in cui i contribuenti gemono sotto il peso della pressione fiscale, capita che proprio coloro che esercitano il terribile diritto della riscossione, dell'esazione delle tasse, riescano a propria volta a rifilare allo Stato, alle sue articolazioni periferiche, un terribile problema invece che il sollievo di garantire il gettito che ci viene sottratto dalle tasche. Che cosa avviene in questi giorni? Avviene che è esplosa una vicenda che per tanti versi può sembrare degna di avvenire solo nel nostro paese, cioè un numero elevato di alcuni comuni, prima sembravano solo pochi a dire la verità, non molto importanti di rilievo, poi via via si scopre che sono più di 100, 120, 135 addirittura, avevano affidato negli anni il compito di riscuotere le tasse. In Italia è tradizione plurisecolare che l'esazione sia affidata a società, appunto alle esattorie private, in cambio di un aggio, e questo perché da sempre le diverse articolazioni dello Stato sono poco efficienti quando si tratta di riscuotere quanto loro stessi stabiliscono che i cittadini e le imprese gli debbono, e l'avevano affidata a una società denominata Tributi Italia. Se non che questa società Tributi Italia, con clienti dal nord a sud e con comuni anche importanti come Bologna e un buon numero di comuni di media rilevanza e importanza, dopo anni si scopre che questa società Tributi Italia in realtà quello che raccoglieva in ICI e quello che oggi resta dell'ICI dopo l'abrogazione sulla prima casa del governo Berlusconi, seguita al primo scaglione del governo Prodi, la TARSU e così via, sì, li raccoglieva dai cittadini dei diversi comuni dai quali aveva avuto il mandato, però dopo averli raccolti questi denari si guardava bene dal girarli ai comuni. E quindi questa società Tributi Italia, che ha quasi 1200 dipendenti che non ricevono lo stipendio da alcuni mesi, i soldi se li è presi e li ha fatti sparire, e tutti questi comuni si trovano oggi con 90 e più milioni di ammanco, che per le loro finanze sono un bel buco, per così dire, che già si aggiunge poi alle difficoltà di una finanza locale su cui si è abbattuto. E il dimagrimento delle risorse proprie, perché poi l'abolizione dell'ICI ha significato meno risorse innanzitutto per i comuni, che stenta per il patto di stabilità che impedisce persino ai comuni virtuosi di riallocare le risorse e gli avanzi di bilancio, e in tutto questo scopriamo che poi c'è chi si piglia le tasse in nome e per conto dei comuni e se le porta via. Ora, quello che si è ottenuto di questa vicenda, i cui particolari però restano anche oscuri perché la stampa poi ha dedicato alcuni articoletti ma non ha approfondito la vicenda, quello che è noto, gli ultimi sviluppi sono che si è ottenuta una sospensione cautelare di questo Tributi Italia, iscritta presso l'Albo Nazionale degli Esaltori, e questa sospensione è cautelare in attesa dei provvedimenti, degli accertamenti, ed è stata assunta l'altro ieri dalla Commissione Federalismo Fiscale presso il Dipartimento delle Finanze, incardinato presso il Ministero dell'Economia. Oggi trovate sulla stampa tra l'altro un articolo di Luigi Laspina in cui si solleva un paradosso nel paradosso nel paradosso, per cui l'onorevole e avvocato di Berlusconi Ghedini è naturalmente il difensore, perdonate per averlo naturalmente, ma Laspina dice, è il difensore di Tributi Italia, sarebbe meglio che un parlamentare non si mettesse a difendere esattori delle tasse accusati di infedeltà così grave nei confronti dei soggetti pubblici per i quali dovevano ricoprire un incarico così delicato. Questa è la premessa, e oggi abbiamo chiesto ad alcuni protagonisti, autorevoli rappresentanti delle istituzioni locali, di aiutarci a capire come una vicenda di questo tipo possa essere avvenuta. Ma insomma, chi doveva fare questi controlli? Chi doveva accertare il DNA, la fedina penale, le procedure operative, la regolarità dei pagamenti di questi Tributi Italia negli anni? Dovevano farlo i comuni che affidavano a Tributi Italia, in un numero molto consistente, come abbiamo visto, il mandato di riscuotere le nostre tasse? O invece, al contrario, i comuni si fidano di soggetti di questo tipo perché la vidimazione, la garanzia, insomma, sulla trasparenza e sui requisiti morali di chi esercita un incarico così delicato lo deve dare l'amministrazione centrale, il fisco? Ecco, cerchiamo di capire meglio come funziona questo federalismo in lunghissima e lentissima transizione mai attuato nel nostro paese, e ce lo spiegheranno gli ospiti di oggi, che sono innanzitutto Sergio Chiamparino, sindaco di Torino, della mia città, e lo ringrazio moltissimo, e presidente dell'ANCI. Buongiorno, sindaco. Buongiorno Gianni. Poi abbiamo il sindaco di Pomezia, Enrico De Fusco, che è uno dei comuni interessati in prima fila a quanto ha malfatto Tributi Italia. Buongiorno De Fusco. Buongiorno, buongiorno a lei. E poi dopo ci collegheremo anche con Maurizio Bernardo, capogruppo PDL alla Commissione Finanze alla Camera. Chiamparino, come avviene che una società abbia un mandato da tanti comuni e si scopra solo quando è sparita la cassa e non paga più i suoi dipendenti che non versava ai comuni? Cioè, chi è che non ha controllato? Credo perché le società di riscossione ovviamente operano con delle certificazioni dell'amministrazione centrale dello Stato, quindi direi che, per rispondere direttamente alla sua domanda, mi pare che il controllo sia duplice: ce n'è uno all'origine che non può essere fatto dai singoli clienti, dai singoli comuni che in quel caso sono clienti, poi c'è naturalmente il controllo che qualunque cliente fa sul suo fornitore per capire se il prodotto che gli offre è buono, quindi evidentemente il controllo non può che essere duplice degli uni e degli altri. Ora, questa vicenda è esplosa, credo che il collega di Pomezia sia in grado più di me di rispondere. Allora guardi, facciamo una cosa, perché mi sembra che siamo di fronte, adesso non so se il termine tecnico è giusto, Giannino, però siamo di fronte a una truffa. Pare anche a me, sì, così si chiama. Pare anche a me. Allora torniamo subito con lei a vedere un po' i problemi generali delle risorse proprie e di come sta oggi il dialogo, se è un dialogo, è diventato più buco, un dialogo, un braccio di ferro col Ministero e i comuni. Intanto chiediamo al sindaco di Pomezia, la vicenda che vi riguarda, appunto, come nasce? Cioè, in realtà, voi i dubbi quando è che avete iniziato ad averli? Chi davvero deve certificare la trasparenza e l'affidabilità di un soggetto a cui un comune come il vostro affida negli anni l'incarico di riscuotere le tasse locali? Ma guardi, questa vicenda nasce dal 99, 10 anni fa, quando è stata promossa questa iniziativa dal Comune di Pomezia, allora aderendo ad una convenzione già sottoscritta al Comune di Aprilia, quindi è stata costituita una società mista di nome ASER. Da lì che nasce tutta questa vicenda, ma una vicenda oserei dire assurda, anche perché il conferimento di questo servizio è costato ai cittadini di Pomezia, ma di Aprilia, di Nettuno, un aggio del 30% l'anno, una cosa terrificante, 30% di aggio, stiamo, i limiti dello strozzinaggio, forse anche qualcosa di più. Ma e perché l'avete accettata allora? Beh, guardi, non lo chiedo a me, lo chiedo a chi nel 99 ha deciso di fare questo tipo di scelta scellerata e sciagurata. Io sono arrivato nel 2006. E perché in questo caso l'affidamento è pluriennale e non è soggetto a poter essere ridiscusso? Ventennale, infatti, guardi, le dico, io sono arrivato nel giugno del 2006 e soltanto dopo alcuni giorni, rendendomi conto della situazione, della realtà, abbiamo attivato ciò che la convenzione già stabiliva, l'odi arbitrale. L'odi arbitrale perché ritenevamo che le risorse che ASER Tributi Italia, allora San Giorgio, versava al Comune di Pomezia non erano quelle che già, secondo la convenzione scritta, aspettavano al comune che doveva trasferire questa società. Quindi già su questa vicenda, su questa questione abbiamo aperto un contenzioso. Un contenzioso che ha condannato Asia Vettrimbo d'Italia San Giorgio allora a versare le casse del comune prima 5 milioni e 500 mila euro circa e poi un lodo successivo arbitrale di circa 14 milioni e più per un complessivo tra interessi e tutti di 22 milioni, quelli accertati oltretutto anche dalla commissione parlamentare su questa questione. E io ho attivato immediatamente un precetto con la immediata richiesta al tribunale di Velletri del sequestro dei conti correnti e quindi per il versamento, per il mancato versamento di queste somme. Da lì è iniziata tutta questa vicenda, io la faccio breve, che ha portato all'amministrazione comunale, la mia amministrazione circa un anno fa, alla rescissione del contratto. Quindi noi, nonostante questa convenzione avesse durata ventennale, noi, come dire, a distanza di 2 anni e poco più della mia amministrazione, dopo una serie di contenziosi, abbiamo proceduto alla rescissione. Quindi unilaterale da parte del Comune di Pomezia, una rescissione che è stata contestata da Tributi Italia al TAR, e il TAR non ha accolto la sospensiva, al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato non ha accolto la sospensiva, il TAR doveva entrare nel merito il 9 di questo mese, invece poi ha spostato la data al 22 di dicembre, ma io credo, mi auguro perlomeno, che questa vicenda, triste vicenda, si concluda definitivamente. Io la interrompo perché poi scusi un secondo, approfondiremo meglio, perché quello che è successo, quindi la procura di Velletri e di Latina è interessato a altre procure, sono stati interessati da altri comuni come Pomezia, quindi Bologna, Sassari, Bari, Brindisi, Siracusa, la lista è lunghissima. Quello che io non capisco, e le chiederò poi di aiutarci a capire insieme al parlamentare con cui ci collegheremo, è come mai, se la vicenda aveva visto incardinati procedimenti giudiziari o comunque ricorsi amministrativi prima dei procedimenti giudiziari già da anni e anni, si è dovuti arrivare fino all'esplosione della vicenda finale con la cassa sparita e bisogna aspettare solo anni dopo per avere questa sospensione cautelare che non è ancora la radiazione. Quindi mi pare che in questo caso, perdonate, mentre il fisco è spietato con i contribuenti immediatamente e viene immediatamente da me a dirmi qual è la mia cifra d'affari presunta, il mio impenibile presunto, la tassa che secondo lo Stato gli devo dare e se la piglia nel mio conto elettronico, nei confronti poi di chi è un infedele servitore dell'istituzione raccoglie lo Stato, diamo tutte le garanzie e aspettiamo anni e anni. Mi sembra un po' un paradosso, ma approfitto del fatto che Chiamparino sta con noi fino alle 9.30, quindi ancora pochissimi minuti, per chiedergli invece di aiutarci a capire un'altra cosa. L'inizio della legislatura è stato l'inizio della legislatura in cui il governo ha mantenuto la sua promessa di procedere con l'abrogazione dell'ICI prima casa e voi siete rimasti senza risorse. Siete rimasti senza risorse, ma con una promessa di far fronte con nuovi trasferimenti. Le chiedo, a distanza di oramai un anno e mezzo, da allora la seconda finanziaria è in arrivo, questo problema, in attesa del federalismo che si compirà, ma nel frattempo voi come lo risolvete, visto che anche sul patto di stabilità interna non mi pare che sia stato risolto il nodo nemmeno a favore dei comuni virtuosi? Ma guardi, mi sembra proprio che si stiano mettendo molto male i rapporti tra governo e comuni, perché c'è la questione del patto di stabilità e c'è la questione degli arretrati ICI, perché non lasciamo stare se era giusto o meno abolirla, qui bisognerebbe aprire un dibattito, perché è paradossale che un paese che parla di federalismo poi è l'unico paese in cui i comuni non hanno nessuna autonomia fiscale, ma per il momento accantoniamolo. Quando è stata abrogata l'ICI ci è stato dato, riconosciuto a tutto il comparto comuni nel 2008 2 miliardi e 600 milioni di rimborso ICI contro una certificazione dei comuni di 3 miliardi e 3. Poi grazie a un intervento, diciamo così, correttivo, quei 2 miliardi e 6 sono diventati 2 miliardi e 8 e 50, quindi diciamo che per il primo anno la differenza tra le due cifre è stata di 550 milioni. Il secondo anno non c'è stato più intervento correttivo, quindi siamo a 700 milioni, e i primi 2 anni fra 1,2 miliardi di differenza. Noti Giannino che il certificato dei comuni è stato riconosciuto valido da una commissione tecnica presso la Ragioneria dello Stato, quindi non è solo una cosa che diciamo noi. Bene, e non c'è traccia di voler recuperare questo scarto. Vi faccio l'esempio perché sono arrivato, mi hanno detto che ieri hanno fatto il mandato in tesoreria. Il Comune di Torino su 100 milioni ne riceverà 26 in meno, per così le do un'idea quantitativa di cosa può voler dire per un grande comune, ma a scalare vale, proporto quota vale per tutti. E lei capisce che su questa, se non c'è un segnale quantitativo che anche diciamo con una gradualità nel tempo, ma ci consente di recuperare questo, oltre al patto di stabilità che non consente ai comuni virtuosi di spendere quello che hanno, c'è anche il fatto che mancano le risorse per far fronte alle domande più elementari. Oh, ma tutto passo, le cose si mettono male, insomma, male. Signor Presidente dell'ANCI, ma la domanda è questa. Sì. Non è mai stato offerto ai comuni per la parte di propria competenza, poi naturalmente anche alle regioni per la parte di propria competenza, una specie di patto, visto che questa legislatura nasce con la promessa esplicita, ribadita in più atti formali del governo, non solo in comunicazioni orali, in atti formali, c'è scritto nei DPF del governo, che entro legislatura si faceva l'attuazione del federalismo fiscale. Ma ecco, la domanda è questa: in previsione di questo passaggio pluriennale, non vi è mai stato offerto una specie di patto che diceva guardate, qua di liquidità di cassa ce n'è poca nel frattempo, noi prenderemo delle scelte tipo quella dell'ICI, siate d'accordo o meno, ma nel frattempo noi vi metteremo per iscritto che siccome entro la legislatura vi passiamo risorse proprie in questa eccetera eccetera, negli anni noi forse non faremo fronte a tutti i trasferimenti di liquidità che chiedete, però dal momento in cui poi si fa avrete diritto a un recupero su cui fin da oggi potete andare in deficit entro una certa percentuale. Non c'è niente di questo tipo. Guardi, l'unico intervento è quello che le ho accennato lo scorso anno, il presidente Lanci era Domenici, io ero presente in incontro con Tremonti e il presidente Berlusconi. Ci fu dato ci furono concessi un una tantum di recupero sull'ICI tagliata di mi pare 250-260 milioni, come l'ho detto, che portò da 2,6 a 2,8 qualcosa il rimborso, che poi adesso è stato tolto perché era un una tantum. C'era un impegno di Calderoli a portare il primo dei decreti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale, che diciamo che reintroducesse una qualche forma di autonomia fiscale ai comuni. Lei ha visto a traccia di questo decreto attuativo? Non credo, no. Se ce l'ha me lo dica, perché abbiamo fatto un incontro con Berlusconi al Palazzo Chigi la scorsa settimana, due settimane fa ormai, molto galateo, molto politically correct, però finora i risultati sono quelli che mandano gli emendamenti alla finanziaria senza neanche consultarci, poi se li fanno pure bocciare. No, però non faccia questo riferimento, perché quella è una vicenda che, di cui oggi non ci occupiamo, ma è un po' amara, perché lei capisce che quando i cittadini si trovano con i giornali, Sole 24 ieri si apriva per esempio, che dicono meno 27% di poltrone nel totale dei poteri locali, e poi scoprono che la cosa è durata poche ore perché la Camera... No, questo però gli emendamenti almeno bisogna saperli fare. Poi, scusi, io chiedo, se la mettiamo così, io dico noi abbiamo dato il massimo di disponibilità a discutere anche di revisione di tutti gli organismi, ma... Però allora, il fatto è che voi non ne sapevate nulla. Noi non siamo stati neanche informati da una telefonata che andava... Non solo, ma io dico di più, se si opera in questo modo, allora se è demagogia, allora demagogia per demagogia io dico riducano a metà senatori e deputati e vedrà che si risparmia molto di più e migliora anche l'efficienza del Parlamento. Questo naturalmente ha ragione, quindi non posso che... Adesso vediamo, però hanno detto che oggi l'emendamento viene ripresentato. No, io conosco lei e la stimo. Io dico, sono disponibilissimo a sedermi a discutere di una riorganizzazione. È la carta delle autonomie, quella che a ridiscutere del riassetto istituzionale. Cosa facciamo delle province, cosa facciamo delle comunità... In quel quadro, io dico, si può rivedere benissimo anche il numero dei consiglieri comunali, però in un contesto che abbia un senso istituzionale, non per fare cassa, perché se è per fare cassa, allora io dico, tagliate a metà i deputati e i senatori e migliora tutta la finanza pubblica, non c'è dubbio. Un'ultima cosa, nella sua esperienza e responsabilità anche di presidente dell'ANCI, dovesse dare un'impressione a chi è a casa, la fotografia dei comuni allo stato che ha descritto, cioè non essendo stati ripianati neanche in parte delle risorse perse in questi due anni, come si sta comportando? Si sta comportando tagliando le spese, aumentando il deficit ulteriormente, infittendo la lista di chi va in violazione del patto di stabilità? Come si stanno comportando in questa condizione di difficoltà i suoi colleghi? I comuni, guardi, stanno, come si dice, raschiando il fondo del barile. Chi ha un po' più di, chi ha un po' più di grasso, diciamo, riesce ancora a sopravvivere, chi ne ha di meno rischia seriamente di dover intaccare l'osso, e quindi l'osso per noi vuol dire i servizio ai cittadini. Allora io dico, domani a Roma riuniremo l'ufficio di presidenza dell'ANCI. Io credo che se non c'è un segnale da parte del governo di cambiamento di rotta, saremo obbligati a prendere in considerazione delle azioni clamorose di protesta, che non vuol dire soltanto la manifestazione, che ci sarà anche probabilmente, ma vuol dire prendere, insomma, non si può scaricare sui comuni costi che dovrebbero essere parte, diciamo, propri dello Stato, penso a quelli per la sicurezza, penso a quelli per la giustizia, e poi non dare, mettere i comuni in condizione di far fronte alle esigenze basilari che hanno nei confronti dei loro cittadini. E io ringrazio il presidente dell'ANCI, l'appello è quello a non indebitarvi ulteriormente con le banche, con i derivati, perché sennò poi scoprireste di nuovo tra qualche anno nuove fregature per i vostri cittadini e per voi stessi. E credo che l'appello sia molto chiaro, è un appello che qui non è polemica nei confronti del governo, è un appello alla chiarezza, perché i bilanci pluriennali si possono fare quando c'è certezza delle risorse che si possono impegnare, altrimenti si finisce per impegnare di fronte ai cittadini dei doveri da esercitare sui servizi che non si è più in grado di esercitare, ed è molto difficile stare tra le responsabilità doverose e l'insufficienza di risorse, insufficienza dovute proprio al fatto che chi dovrebbe garantirtene in un quadro di certezza pluriennale te le leva e ti dice che te le darà e poi non te le darà. Grazie al presidente dell'ANCI. Allora, torniamo alla vicenda di cui ci siamo occupati, questa vicenda di Tributi Italia, 135 comuni che si trovano con oltre 90 milioni di euro di ammanco per incassi di imposte proprie affidate a questa società Tributi Italia, che è sparita nel nulla. E si scopre, lo abbiamo scoperto parlando prima con il sindaco di Pomezia, con uno dei comuni che subisce questo danno, che da anni in realtà erano incardinati ricorsi, contestazioni, indagini su molte procure, e io mi sono preso la briga di andare poi a spulciare un po' di atti di tutte queste indagini, perché ripeto, tante procure ci hanno lavorato sopra questo Tributi Italia, di fronte al fatto che i comuni che avevano questi accordi decennali o ventennali, come nel caso di Pomezia, riscontravano che poi i soldi non arrivavano, c'erano irregolarità. E se uno si procura un po' gli atti che sono aperti presso le procure di Velletri, Latina, Bologna, Sassari, Bari, Brindisi, Siracusa, trova che la vicenda, più legge gli atti, lo dico da cittadino prima che da giornalista, più fa venire i brividi, perché apre uno spaccato su un mondo, quello degli esattori, che ha talvolta, io non voglio generalizzare, ma in questa vicenda lo ha davvero e lo offre all'attenzione di tutti, dei risvolti inquietanti. Cosa voglio dire quando dico inquietanti? Per esempio, chi era il dominus di questa Tributi Italia? Secondo gli atti delle indagini della procura di Velletri, il dominus di questa Tributi Italia è tal Giuseppe Saggese. Ma nella Tributi Italia ha incarichi formali? No, non ce l'ha. Anche se il dominus, dice la procura di Velletri, è lui, ha solo una specie di consulenza per non meglio denominati servizi speciali, eppure è lui quello che risulta avere messo insieme diversi pezzi da cui nasce negli anni, da molti anni, dall'inizio degli anni 90, quindi in un ventennio, la società denominata Tributi Italia, perché mette insieme prima una rete di piccoli esattori che si chiamava Public Consult, che è quella che ha appunto accordi con comuni come Nettuno, Pomezia, Aprilia. Poi a un certo punto la Public Consult cambia nome, diventa la società San Giorgio. Perché cambia nome? Perché nel 2001 questo Giuseppe Saggese intanto viene arrestato una prima volta, viene arrestato con l'accusa di avere corrotto, pensate, quasi 500 consiglieri comunali, cioè la somma dei consiglieri comunali di tutti i comuni per cui la Public Consult aveva avuto l'affidamento. Quindi al 2001 siamo già a un arresto. Ma cosa succede? Succede forse che la Public Consult perde i mandati? No, cambia nome e diventa a quel punto San Giorgio, continua a crescere perché acquista altre società come la siciliana Ausonia. Sì, il Saggese fa un passo indietro, ma entra in scena la sorella Patrizia, che fa l'avvocato, e così via, di crescita in crescita, si arriva alla Gestor, un altro pezzo, questa volta operante nelle esattorie pugliesi, e che viene inglobato nella San Giorgio, fino ad arrivare alla Tributi Italia. La faccio molto breve, come vedete, ma in realtà qui ci sono tre questioni. Primo, i dominus ha da molti anni arresti e fedina penale sporca. La trasparenza di questa società che cambia nome ogni 2-3 anni, ogni qualvolta si espande in Italia con altri comuni ed altre sezioni locali, è totalmente mancante. Se uno va a vedere gli atti depositati di Tributi Italia, la definizione degli organi societari, le competenze, eccetera, eccetera. La domanda mia è: ma questo mondo delle esattorie, che tradizionalmente garantisce agi pazzeschi a chi fa questo per conto dei comuni e dello Stato, è possibile mai che noi ce lo trasciniamo da secoli in questa opacità? Sono sempre gli amici degli amici quelli che devono beccare una percentuale così elevata delle nostre tasse? Perdonate la domanda, ed è questa domanda precisamente che io voglio girare, non per polemica ma per aiutarci a capire ancora una volta, al sindaco di Pomezia con cui siamo partiti, Enrico De Fusco, e nel frattempo vi presento anche l'onorevole Maurizio Bernardo, capogruppo PDL in Commissione Finanze della Camera, al quale chiediamo, buongiorno onorevole Bernardo. Buongiorno a voi. Al quale chiediamo innanzitutto a lei, poi riprendiamo con il sindaco di Pomezia, ma possibile mai che questi controlli da parte del Ministero, delle autorità centrali, qui c'è un albo degli esattori, com'è possibile che ci siano degli esattori ladri arrestati, le cui sorelle, fratelli, zie e cugini entrano nella società, tutto va bene e siamo ancora, perdoni la domanda, so che non dipende da lei, il provvedimento è stato assunto al Ministero, non dal Parlamento, siamo solo a una sospensione cautelare, cos'altro bisogna che avvenga perché ci sia una radiazione da questo albo, secondo lei, onorevole Bernardo? Ma direi innanzitutto, come lei sa, avendo così ben approfondito l'argomento, è che diversi colleghi della Commissione Finanze chiedono appunto di un'audizione per mettere luce su una cosa che purtroppo si protrae da troppo tempo. Tenga conto che la Commissione, presso il Ministero delle Finanze, per quello che riguarda proprio la parte finanze, e vede la presenza del direttore, dei suoi funzionari e i rappresentanti degli enti locali e dell'associazione, della società che si occupano di riscossione. Io devo, le voglio solo informare, onorevole Bernardo, a informare i nostri ascoltatori, che noi in tutto il pomeriggio di ieri abbiamo chiesto ai rappresentanti della commissione ministeriale di venirci a spiegare, chiunque di loro avesse 5 minuti, mi bastava un minuto per spiegarci come diavolo questa storia dal loro punto di vista sia avvenuto, non abbiamo avuto risposta. Non lo dico polemicamente, avranno molto da fare. Certo è un po' un problema scoprire che nei anni l'esazione è affidata a personaggi di questo tipo, però... Tenga conto che l'albo è tenuto da questa commissione, che è una commissione quindi mista, una commissione quindi che vede presente questo albo che ha portato a ridurre circa di una trentina le società che si occupano di riscossione. Evidentemente il fatto è grave per tutti, anzi direi gravissimo rispetto a quello che è accaduto e quello che poi è successo nelle varie formule societarie che qualcuno ha dato vita. Devo anche dire che, come gli ascoltatori, ma il sindaco di Pomezia e lei stesso sa, vi sono dei rapporti di autonomia da parte dei comuni nell'attivare formule societarie anche miste, come è capitato in tanti comuni, perché Tributi Italia aveva 400 comuni sugli 8.000 e qualcosa, dove ci sono cose strane anche tra i comuni e queste società miste rispetto a Tributi Italia. La ragione della sospensione e non della messa subito in liquidazione è perché c'è un'attenzione nei riguardi dei 1200 lavoratori di Tributi Italia e di quello che si può pensare in un riordino complessivo aziendale, escludendo ovviamente i commissari responsabili, di proteggere anche l'occupazione da una parte e vedersi soddisfatti i crediti. Ora io faccio presente, intervenendo, che giustamente noi ci siamo posti anche il problema di dare voce a Tributi Italia. Io sono un garantista e quindi non parto mai dall'idea di fare processi in assenza, quindi io ribadisco l'appello che abbiamo già loro lanciato anche ieri per eventualmente venirci a spiegare le loro ragioni, perché una cosa mi ha colpito, mi rivolgo in questo caso al sindaco di Pomezia. Tributi Italia sostiene nelle proprie memorie difensive di essere a propria volta parte lesa, cioè sostiene che se i 135 comuni lamentano i 90 e più milioni di ammanco, Tributi Italia sostiene di essere in credito a propria volta per 140 milioni, tanto è vero che propone che sia la SACE adesso a metterli, quindi il paradosso potrebbe essere che li hanno messi i contribuenti, voi non li avete avuto, in più li beccano pure dalla SACE, non so cos'altro ci vogliamo inventare, ma io lo dico perché per scrupolo non voglio apparire pregiudizialmente ostile, magari è una società di galantuomini che questi soldi sono spariti nel nulla e loro sostengono di essere parte lesa. Com'è possibile che sostengano anche di essere parte lesa, signor sindaco? guardi, la cosa non è esattamente così. Quando lei ha detto non voglio entrare in polemica con lei, con me non entro in polemica, non è più categorica, perché io non mi sento per niente responsabile, certo, di quello che è accaduto 10 anni fa, anzi, noi abbiamo iniziato, le dicevo prima, più di 3 anni fa, appena insediato, un'azione nei confronti di Acer e San Giorgio, quindi l'abbiamo iniziato da subito. Da subito abbiamo iniziato ciò che la Convenzione già stabiliva, il ricorso al lodo arbitrale, purtroppo il lodo arbitrale che vede la presenza di 3 giudici, di cui uno da parte del Comune, un altro della San Giorgio Acer e il Presidente nominato in modo congiunto. Il lodo arbitrale, immagini un po', all'unanimità ha stabilito in 2 circostanze che Acer San Giorgio doveva dare al Comune di Pomezia 5 milioni e più e 14 milioni e più, questo è un dato. Da lì è iniziata una battaglia a coppia di denunce e quant'altro, che ha portato il mio Consiglio Comunale con un'azione forte a rescindere la convenzione. Tutto qui, e noi già ormai quasi 6-7 mesi che stiamo riscuotendo direttamente i tributi dei cittadini. Ora, quello che perché vanta... perdoni, adesso la interrompo perché abbiamo un minuto di informazione sulla circolazione stradale, riprendiamo poi esattamente di qui, perché tanta gente giustamente chiede ma perché non la fanno direttamente la riscossione dei tributi e la fida gente che si pappa tanti denari. Stiamo tentando di capire in questa vicenda dei tributi Italia chi ha ragione e chi ha torto. Certo, molte sono le aree di opacità di una vicenda di questa società incaricata di la riscossione dei tributi, cui i protagonisti, Dominus secondo alcune procure, insomma, avevano già avuto molti incidenti anche con la giustizia penale. Ecco, cioè, malgrado il sindaco di Pomezia ci spiega, è molto difficile poi alla fine rescindere contratti ventennali, cioè lo si può fare, ma c'è tutto un iter, si va avanti e nel frattempo si resta affidati a loro. 2 brevi telefonate, poi torniamo con il sindaco di Pomezia e con l'onorevole Bernardo che abbiamo collegato da Roma. Allora, prego innanzitutto Giovanni da Taranto, vi prego di essere sintetici. Prego Giovanni. Buongiorno, io volevo fornirvi una semplice informazione. La società che è qui a Taranto, ricordate, è quella città che 2-3 anni fa è stata travolta da un ammanco di 900 milioni di euro, quindi c'è stato il dissesto. Ecco, la società per la riscossione dei tributi qui a Taranto aveva un aggio del 48%, non sul riscosso, sull'accertato. Mi scappa da ridere perché è il classico meccanismo attraverso il quale si gonfia ancora di più l'imponibile presunto, come è ovvio. Questo è 30 anni che continua sta storia e adesso ci sono anche difficoltà per rivedere il tutto, perché chiaramente gli avvocati qui si giocano certo. Grazie Giovanni. Infatti Luigi La Spina della Stampa ci ricorda oggi che per Tributi Italia è in campo un fior di avvocato, insomma, stiamo parlando dell'onorevole Ghedini. Patrizia da Trapani, dalla provincia di Trapani, prego Patrizia, qual è la sua esperienza? Io ho 2 immobili, uno a Nettuno e un altro ad Aprilia, e in entrambi i casi mi sono trovata di fronte a problemi che sono durati per anni, nei quali mi veniva richiesto continuamente l'ICI pagato nel 2000, 2001, 2002, 2003, insomma era una tragedia ogni anno, perché secondo loro questo ICI non era stato pagato. In realtà l'ICI era stato pagato come giusto che si paghi nel tempo che si paghi, ma era stato pagato ad un'altra società e poi non risultava a loro. Questo comportamento naturalmente ha comportato dei disagi notevoli per quanto mi riguarda, tra lettere raccomandate, ricerca dell'ICI passato e tutta una serie di cose. Tra l'altro, in tutta questa confusione, per esempio l'Acer di Aprilia ha creato una serie di disguidi. Io mi sono trasferita in Sicilia, sono dovuta andare 3 volte appositamente prendendo l'aereo e tutto quello che comporta per parlare con loro, perché mi continuavano a attribuire anche dei terreni che io non avevo più, e io continuo a pagare per tutti questi anni terreni che non mi appartenevano, perché loro appunto non avevano messo in regola nemmeno questa posizione. Grazie Patrizia, un'altra testimonianza. È chiaro che quando c'è un interesse che a mio giudizio è improprio nell'esazione, si picchia e si ripicchia molto più di quanto lo Stato già non ci picchi di suo, con le norme un po' pesanti e terribilmente pervasive dell'amministrazione fiscale. Eravamo rimasti con il sindaco di Pomezia sulla domanda: ma perché i comuni non le esercitano direttamente l'esazione? Infatti noi stiamo esercitando direttamente, abbiamo rescisso un contratto, bisognerebbe chiederlo a chi a suo tempo ha fatto questa scelta. Io ricordo 20 anni fa, ero vice sindaco di questa città, i tributi li riscuoteva direttamente la tesoreria comunale. Lei immagini, noi abbiamo una società multiservizi di proprietà del Comune di Pomezia che riscuote i tributi della Stosap. Quando abbiamo deciso di rescindere il contratto con Acer e Tributi Italia, abbiamo comunque pensato di farlo direttamente come tesoreria e amministrazione comunale. Immagini un po', nemmeno la nostra società SPA, perché vogliamo controllare direttamente queste entrate di cittadini, senza dispendio né di energie né di risorse, oltretutto a maggior ragione oggi che le risorse ce ne sono pochissime. Ne parlava prima il presidente dell'ANCI, il sindaco di Torino Chiamparino, ma che è la realtà. Oh, questi 90 milioni che mancano ai 100 comuni eccetera, voi come chiedete di far fronte? Cioè chiedete che ci sia una garanzia pubblica, che siano le banche a farsene garanti? Qual è la richiesta? Guardi, io le dico una cosa, immagini, in attesa di ciò ho avuto anche un incontro con il prefetto di Roma, il dottor Pecoraro, è stato gentilissimo, al quale abbiamo chiesto un contributo straordinario per sopperire questa carenza e questa mancanza. Ed immagini, anche pagando in modo rateizzato, in attesa della conclusione di questa vicenda, perché noi rischiamo di non fornire nemmeno i servizi necessari alla città, perché ovviamente lei capisce, quando si comincia a parlare di svariati milioni di euro, il problema si pone. Questi soldi, oltretutto, che erano iscritti al bilancio perché dovevano entrare nelle spese, nelle entrate correnti, sono stati frutto di spese correnti, perché per noi andava, come dire, valeva la teoria, la certezza che quei soldi dovessero entrare perché ciò che quando stabiliva la convenzione e l'accordo. I soldi non sono entrati, il Comune li ha spesi, perché ovviamente fanno parte delle entrate e uscite, come lei ben sa, e oggi abbiamo delle difficoltà, facciamo fatica a pagare, come dire, i fornitori, ed è una cosa grave, grave sulla gravità anche di chi, piccoli anche imprenditori, hanno fornito assistenza e servizio per la comunità, per la collettività, ai quali non riusciamo, come dire, a rispondere a quelle che sono state le scelte fatte. Quindi grazie signor sindaco. Hai molti ascoltatori che ci chiedono la lista precisa dei 135 comuni. Come avete capito, 135 comuni sono tanti. Pensate che Tributo Italia fino a 3-4 anni fa era riuscita ad arrivare a esercitare l'esazione per quasi 400 degli oltre 8.000 comuni italiani, quindi stiamo parlando di un grande gruppo esattoriale. I comuni riguardano praticamente quasi tutte le regioni, Lazio, Calabria, Puglia, comuni molto importanti, poi da Bari a Bologna, nel nord c'è un bel po' di comuni liguri nella zona del Tiguglio e così via, quindi è un fenomeno che riguarda un po' tutta Italia. Naturalmente la maggior parte di questi comuni denuncia manchi nell'ordine di 2, 3, 4 milioni, inferiore il numero di comuni che invece hanno manchi nelle decine di milioni. La mia domanda finale per l'onorevole Bernardo: come avrà capito, qua nella transizione tra nuovo federalismo, vecchie regole e così via, non si finisce qui che i controlli, ciascuno dice, li dovete fare voi, i comuni che fate gli accordi con gli esattori, però i comuni dicono sì, ma l'albo è nazionale presso il ministero, non finisce che poi questi controlli non li fa nessuno? Ma guardi, io come ha esordito lei, non voglio fare battute a effetto, e cerchiamo siamo alla ricerca della verità e per stabilire un ordine e ovviamente rispettare i creditori che poi sono gli amministratori, ma in fondo i cittadini italiani. Nella commissione presso il Ministero vi sono presenti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, dell'Unione delle Province Italiane. Noi in audizione abbiamo ascoltato entrambi i rappresentanti. Il fatto grave che le trasmetto è che la persona dell'ANCI, quindi senza voler attribuire alcuna responsabilità, certo, nulla sapeva di quello che stava accadendo, pur rappresentando i comuni italiani, rispetto ad una vicenda che va avanti da anni. E ascoltando lei ho aggiunto anche ulteriori informazioni. Io ero presente a tutte le audizioni fatte recentemente dalla Commissione Finanze, sottolineo recentemente dalla Commissione Finanze. No, ma onorevole Bernardo, io le do atto che, avendo ricercato ieri, come faccio su tutte le banche dati, atti parlamentari approfonditi, ho trovato così delle fonti di relato. Il problema è che bisogna prendersi gli atti della magistratura, delle diverse procure, dove si trova e come si trova ricostruita questa vicenda. E il punto di vista, naturalmente, dei magistrati che indagano e dell'accusa, non dico che sia la verità. Però, insomma, in Parlamento, l'ANCI, la Commissione presso il Ministero, prendeteveli questi atti in mano, perché sono i nostri soldi, santo Dio benedetto, che nemmeno voi avete in tasca. Questo, devo dire, la vicenda di oggi, per questo l'abbiamo definita un paradosso nel paradosso, perché già le tasse sono tante, se in più li dobbiamo dare a chi se le piglia in tasca, non è proprio il caso. Io ringrazio tutti i nostri ospiti di oggi, e in regia Paolo Corleone, Alessandro Marco Tulli, come sempre per la redazione, la linea al giornale radio, l'appuntamento. A domani.